C'è in manovra per questo appuntamento consueto, un'ora di notizie, naturalmente partendo da alcuni titoli. Renzi dice: è tempo di trovare un accordo sul Senato oppure faccio un passo indietro. Il Premier ai senatori Dem, doveroso tener conto di Forza Italia e i senatori indicati da consigli regionali. La nostra proposta, insiste il Premier, non è autoritaria. Grillo, governo dittatura con Napolitano che gestisce lo show all'assemblea di MPS di Montepaschi, vinciamo europee e tutti a casa. Su Berlusconi dice è l'oltretomba e poi sentiremo anche la replica di Berlusconi. E poi il carcere Italia, solo la Serbia peggio di noi in Europa, rapporto 2012 del Consiglio d'Europa appunto sul sovraffollamento, il nostro paese nella top 10 di quelli con il maggior numero di detenuti per posti disponibili. E poi ci rilassiamo anche parlando tra non molto di Bayern Real, la sfida stellare con l'Italia coinvolta ma soprattutto alla finestra. E allora, quando sono le 13.01, direi di partire dal servizio di Andrea Viali, ci fa il punto su il nostro primo ministro, sulla sua azione e sulla trattativa interna al partito e non solo. Sentiamo. Dall'assemblea del Gruppo Democratico a Palazzo Madama, Matteo Renzi rilancia la sua proposta di mediazione sulla riforma del Senato. Il nodo è quello dell'elezione dei senatori. Il Premier propone che siano indicati fra i consiglieri regionali con modalità scelte dalle singole regioni. Un'apertura, la sua, rivolta alla minoranza interna ma anche a Forza Italia, entrambe contrarie al testo base della riforma presentato dall'esecutivo. Fare veloci è l'unico modo per dare un segnale di credibilità in Europa. Faremo tutti gli sforzi per trovare un punto comune, ma in caso contrario sono pronto a fare un passo indietro, avverte però il Presidente del Consiglio. Secondo Renzi è doveroso tenere Forza Italia dentro il patto sulle riforme. Le parole di Berlusconi sui tedeschi e i suoi attacchi a Napolitano però sono inaccettabili, così come le dichiarazioni di Grillo sulla Shoah, aggiunge il segretario democratico, che in vista delle elezioni europee invita anche i suoi a non sottovalutare il Cavaliere, lasciandosi andare a risate per le sue dichiarazioni su cani e gatti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sull'iter della riforma del Senato sentiamo cosa ha detto al termine dell'assemblea del gruppo la democratica Finocchiaro, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Proviamo a finire in commissione entro il 25, lo potremo fare esclusivamente se il lavoro della commissione verrà tenuto al riparo da tensioni di natura elettoralistica, perché noi stiamo in campagna elettorale. È mia intenzione perciò, da presidente, ma anche da relatrice naturalmente, fare in modo che il nostro lavoro, e dico nostro appositamente, sia un lavoro preservato da questo e veda la valorizzazione delle opinioni diverse che sono state espresse e cerchi di portarle avanti, forse mancava una parola. Qui siamo invece, parole che non sono mancate, come sempre, a Beppe Grillo stamattina, che ha partecipato all'assemblea degli azionisti della Banca Monte dei Paschi a Siena. Tra le sue dichiarazioni dice: qui siamo nel cuore della peste rossa, qui siamo nel cuore del voto di scambio, qui è la vera mafia del capitalismo, non la Sicilia, perché MPS è in tutte le situazioni, in tutti gli appalti. Così appunto Beppe Grillo, poco prima di iniziare l'assemblea degli azionisti. I piccoli azionisti, ha proseguito, non contano nulla, sono confinati in questi raduni dell'Ottocento. Sentiamo un breve passaggio. Abbiamo un potere enorme delle banche, abbiamo le solite banche che sapete, che sono mischiate tra di loro, la Bundesbank è dentro la BCE, la BCE è dentro la Deutsche Bank, sono assolutamente ragnatele di potere che nessuno può riuscire a capire, quindi qui siamo nel potere vero. E andiamo a dirgli quello che pensiamo di loro, specificatamente di questa banca. Lasciano deficit, cioè di bilanci di miliardi di deficit, e se ne vanno con 30-40 milioni di bonus. I piccoli azionisti sono tagliati fuori. E intanto, proprio nello stesso orario, di fatto, alzo zero anche per Silvio Berlusconi questa mattina in TV. contro l'Europa, la Germania, contro Napolitano e contro Grillo e la magistratura. Questi bersagli di Berlusconi, cavalli di battaglia della sua campagna elettorale per le europee. E questa volta è da Mattino 5 che l'ex premier contro questi bersagli spara a zero e senza freni e torna ad attaccare Napolitano, colpevole a suo dire di non aver adempiuto al dovere morale di concedergli la grazia. Sarà la storia a dire se sia stato super parte, se così, quando gli viene mostrata una sua foto, risponde: ho visto un film una volta. Profondo rosso. La foto successiva è quella della cancelliera tedesca Angela Merkel. Ho paura a mostrarle la prossima foto. Vediamo la prossima foto. Posso dirle in romanesco? Sì. Aridateci col. Il leader di Forza Italia torna poi sulla condanna per frode fiscale che definisce un colpo di Stato senza carri armati per le strade, utilizzata per cacciare il leader del centrodestra. Quanto a Grillo, è di lui che gli italiani devono avere paura. Grillo mi fa ricordare personaggi che si sono presentati nella storia. Per esempio? Per esempio Robespierre. Grillo è esattamente il prototipo di questi signori, Hitler compreso. E infine l'affondo al governo. Non è stato eletto dagli italiani, si tiene in piedi con i voti dei senatori traditori. E vedendo la foto di Renzi risponde: tassa Cicova. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Questo per quanto riguarda i principali leader della politica italiana. Ora facciamo un passaggio invece sul fronte internazionale, dove continua naturalmente a tenere banco la crisi in Ucraina. Questa mattina il capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov e il direttore dell'intelligence militare Igor Sergun, insieme ad altri due vicepresidenti della Duma del partito di Putin, Russia Unita, sono entrati nella lista delle 15 persone aggiunta dall'Unione Europea, appunto nella lista dei cosiddetti sanzionati. Sanzionati vuol dire di fatto congelamento dei beni, divieto di viaggio nello spazio dell'Unione, che sono stati pubblicati questi nomi oggi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Immediata la reazione da parte di Mosca, che dice: invece di costringere la cricca di Kiev a mettersi al lavoro e al tavolo delle trattative con l'Ucraina sudorientale per discutere il futuro ordinamento del paese, i nostri partner europei si lasciano guidare da Washington con nuovi gesti non amichevoli nei confronti della Russia. Così il ministro degli esteri ha commentato le sanzioni, ha poi aggiunto: se qualcuno a Bruxelles spera di stabilizzare la situazione in Ucraina in questo modo, allora è un'evidente testimonianza della piena incomprensione della situazione politica interna di questo paese. Un invito diretto ai nazionalisti locali a continuare a commettere azioni illegittime e punizioni extragiurisdizionali. Insomma, la situazione resta molto tesa, il tutto mentre Bruxelles prepara anche un confronto di cui il nostro Beda Romano fa il punto, e dopodiché torniamo a parlarne. I quattro candidati per l'Europa. La campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo è ormai avviata. I quattro candidati alla presidenza della Commissione europea, il popolare Jean-Claude Juncker, il socialdemocratico Martin Schulz, il liberale Guy Verhofstadt e l'ecologista Ska Keller, si affronteranno questo pomeriggio al Parlamento europeo in un dibattito aperto al pubblico. Ieri sera si sono affrontati in un dibattito televisivo all'Università di Maastricht. Eppure la presenza di quattro candidati, a cui bisogna aggiungere Alexis Tsipras della sinistra di Syriza, offre per la prima volta una scelta chiara agli elettori europei. La decisione finale sul futuro presidente della Commissione spetta ai governi nazionali. Ma potranno questi ignorare l'esito della campagna elettorale di queste settimane e del voto del 25 maggio? Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Ecco, a proposito di questo dibattito, ve l'ho già segnalato ieri, ve lo ricordo, passando dal sito di Radio 24, quindi radio24.it oppure radio24.solle24ore.com, il risultato è lo stesso. Arrivate dunque alla home page e trovate lo spazio chi sarà il nuovo presidente, 29 aprile, dunque oggi dibattito streaming. Vi ricordo dalle 14.30 le domande della rete Euronet Plus, che vi ricordo è una rete di 14 radio europee, di cui Radio 24 fa parte, cercheremo di, appunto, di conoscere anche quelli che sono quattro candidati. Uno dei quattro sarà sicuramente la figura che a partire da settembre-ottobre sostituirà Barroso alla presidenza, dunque, della Commissione Europea, l'organo esecutivo dell'Unione. E torniamo in Italia invece, parliamo di esercizi commerciali, vendite ancora in calo, reggono solo i discount. I discount tengono botta e meno male che ci sono i discount, verrebbe da dire. Sono gli unici esercizi commerciali alimentari dove le vendite non calano. Anzi, a febbraio sono salite di oltre 2 punti. Nello stesso mese gli ipermercati e i supermercati hanno archiviato flessioni. Non parliamo poi dei piccoli negozi. In generale, anno su anno, l'indice grezzo mostra una flessione di 1 punto, di pochi decimi il calo tra gennaio e febbraio. Vanno giù gli alimentari, ma anche i non. Saltiamo 2 mesi e, dato di oggi, troviamo che peggiora il clima di fiducia delle imprese ad aprile, dopo 5 aumenti consecutivi. L'indice cala 88,8 punti, a marzo era circa 1 punto in più. Sono in flessione le opinioni delle imprese delle costruzioni e dei servizi di mercato, migliorano invece quelle della manifattura e del commercio al dettaglio, proprio quel commercio al dettaglio che a febbraio langue. Anche in Europa il mondo produttivo frena, la fiducia nella ripresa stenta a risalire. La differenza potrebbe farla la fiducia dei consumatori, che invece cresce. Cresce in Eurolandia, nell'Europa a 28, gli ultimi dati sono di una settimana fa, e cresce in Italia. Secondo i numeri diffusi ieri, i migliori da gennaio 2010, le aspettative sul futuro sono più rosee. Speriamo di avere ragione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dal 6 maggio prossimo ripartono gli incentivi per le auto a minore impatto ambientale, con sconti fino a 5.000 euro per i veicoli elettrici, gli ibridi e quelli a metano, biometano, GPL, biocombustibili e idrogeno. Una buona notizia per gli operatori con qualche perplessità. Certo, gli incentivi non dimezzeranno i prezzi delle auto a basse emissioni indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma secondo il presidente di Astorinnovabili, Agostino Re Baudengo, daranno un'indicazione importante. Questo provvedimento chiarisce al mercato e ai consumatori l'importanza di utilizzare auto più virtuose. Per tagliare le emissioni di CO2, aggiunge però Re Baudengo, bisogna che l'alimentazione delle auto elettriche sia di origine rinnovabile. L'Italia comunque è ben avviata, con il suo 30% di energia da fonte appunto rinnovabile. Tra chi lavora nel campo dei veicoli ecologici è quindi un coro di soddisfazione, ma frenata però dalla preoccupazione per le carenze delle reti che dovranno supportare e alimentare le auto ecologiche, come spiega Giancarlo Tecchio, presidente di Prenal, azienda del settore delle rinnovabili. Si pone il problema di creare logistica che poi permette un reale utilizzo di questi automobili. Noi abbiamo una situazione in cui non si può vendere l'energia elettrica se non si è, se è operatori del mercato elettrico. Iniziative di centri commerciali o altri privati quindi resteranno sporadiche. Spiega assai chiaramente la questione Luciano Gaudio, che a Bruxelles lavora con Fuel Cells and Hydrogen, centro pubblico-privato specializzato nella ricerca e tecnologia delle celle a combustione idrogeno. Se io, consumatore finale, ho un incentivo di 2, 3, 4, 5 mila euro, ma devo affrontare dei disagi che probabilmente non valgono quei 5 mila euro, posso anche decidere di non prendere una macchina a 0 emissioni. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E sull'energia, invece, in Francia è davvero battaglia, una battaglia tra Germania e Stati Uniti per il controllo di un gioiello francese noto soprattutto per i treni ad alta velocità. Continua in Francia il braccio di ferro tra l'americana General Electric e la tedesca Siemens sull'acquisizione delle attività energetiche di Alstom, uno dei gioiellini della ricerca e della tecnologia francesi, famosa nel mondo per i suoi TGV, i treni ad alta velocità, che si trova però in difficoltà proprio nel campo dell'energia. Troppo piccola, troppo europea e forse anche troppo diversificata, Alstom soffre il forte calo della domanda di centrali termiche e una concorrenza spietata sui prezzi. In realtà si tratta di una partita a tre, con il governo il presidente François Hollande è sceso in campo, con qualche forzatura alla libertà di impresa, per cercare di limitare i danni strategici, industriali, occupazionali e politici. Il nome del vincitore è atteso per questa sera o al più tardi domani mattina. Marco Mussanet, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E ora invece a Milano, corteo per Ramelli, tensione a Milano, Pisapia dice uniti al di là degli schieramenti. Il servizio. Eccoci, risiamo, tornano gli anni 70. Oggi a Milano torna la parata neonazista prevista nella zona di Città Studi e promossa da tutte le sigle politiche dell'estrema destra. Il corteo, autorizzato dalla questura, intende commemorare alcuni militanti del vecchio movimento sociale italiano uccisi molti anni fa. L'avvocato Enrico Piedenovi, assassinato da un gruppo poi confluito in prima linea, e Sergio Ramelli, un ragazzino ucciso a colpi di chiave inglese AZ-36 da membri del servizio d'ordine di Avanguardia Operaia. Tempi lontani, direte. Tempi in cui i neofascisti di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale venivano accusati dai magistrati di essere complici e mandanti di molte delle stragi della strategia della tensione, da Piazza Fontana a Questura Milano fino a Piazza della Loggia Brescia, Treno Italico, Stazione di Bologna. Per contrastare la presenza delle destre estreme a Milano si muoverà una manifestazione a cui hanno aderito molte sigle della sinistra. Nelle piazze di Milano, che ricordo medaglia d'oro della Resistenza, si rivedranno oggi i labari, si ascolteranno di nuovo marcette fasciste di stampo hitleriano, con il coté di svastiche, croci celtiche, saluti romani e simboli di un passato lugubre che non vorremmo mai più rivedere. Così come non vorremmo mai più rivivere i momenti bui degli anni 70, quando il nostro paese era entrato in una spirale di violenza senza fine, senza ritorno, dove i più elementari codici di convivenza civile erano ormai saltati. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la viabilità, poi torniamo con Carlo Genta per parlare di sfide stellari. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Traffico tranquillo, dunque bene così, andiamo avanti così. Ci sarà un po' più di movimento invece intorno all'Allianz Arena, è lì che si gioca, Carlo, questa sera il partitone con noi alla finestra. Un sacco di movimento ci sarà intorno all'Allianz Arena, che insomma è inutile pleonastico dire sarà esaurita. Questa è quasi una banalità, perché è la gara 2 della sfida più bella del mondo, quella tra le due squadre più forti del mondo, si giocano l'accesso alla finale di Champions League. Il Real Madrid parte con il vantaggio di un gol, sì, quello del Bernabeu, ma anche di una pressione che è tutta sui tedeschi, su Guardiola. C'è un malumore strisciante, strano a guardarlo da lontano, dalla luna intorno al Bayern, però le eminenze grigie del Bayern non sono così soddisfatte, non gradiscono così tanto il Bayern Monaco vestito alla spagnola, così come lo ha realizzato Guardiola. Quindi una sfida che contiene mille motivi. Tra l'altro il Real Madrid avrà Cristiano Ronaldo in condizioni un po' più accettabili rispetto a gara 1, avrà Bale che nella prima partita aveva giocato pochissimo. Se c'è una favorita è la squadra di Ancelotti, che insegue un traguardo ormai mitologico per i Blancos, cioè la famosa decima Coppa dei Campioni, che è diventata una specie di ossessione da quelle parti. Beh, come non capirli con avendone 9. Ecco, tutto questo naturalmente immagino darai ampio spazio anche nell'appuntamento imminente ormai del pomeriggio sportivo, sì, di Radio 24. Beh, naturalmente c'è questo, e poi c'è la Juventus che ha di fatto vinto lo scudetto, manca un punto ora ai bianconeri, giocano con l'Atalanta in casa, poi la trasferta a Roma e poi con il Cagliari in casa. Vuoi che non salti fuori un punto? Beh, no, lo scudetto è questione archiviata, però anche per noi sarà il Banana Day. Troppo interessante. Ah, molto bello, l'abbiamo osservato tutto con grande simpatia. Così semplice, un gesto così semplice, molto più efficace, molto più tra virgolette violento in senso buono, molto più bello di mille efficace, curve chiuse, di mille chiacchiere, eccetera. Basta mangiare una banana e disinneschi, ridi addosso a quei cretini. Tra l'altro quello che l'ha lanciato non potrà più entrare nella stadio di Real, lo sai. In Spagna funziona così. Mi sembra una splendida decisione, anche perché è così mirata in questo caso, visto che lui ha lanciato, sì, mi scusi il gioco di parole, credo che gli altri intorno ci faranno un pensierino. Ottimo, quindi parecchi temi sul tavolo oggi, naturalmente con Carlo Genta, a partire dalle 14.06.07. Grazie Carlo Genta. A dopo. Cambiamo tema completamente, torniamo invece a una cronaca drammatica che ci riporta a un omicidio efferato, un evento drammatico degli anni 80 e di cui si torna a parlare per la fuga di quel De Cristofaro condannato per l'omicidio. Si parlò dell'omicidio della velista, si chiamava Anna Rita Curina, skipper di Ancona, una giovane donna che aveva preso a bordo una coppia per un viaggio, per una delle giornate che volevano essere di regate, e le cose andarono in maniera drammaticamente diversa. Tra qualche istante, ma dalla regia mi fanno segno positivo, dovremmo avere con noi Marina Magistrelli, legale. No. Allora, aspettiamo su questo tema e invece andiamo a quello che avremmo dovuto affrontare subito dopo, che è anche qui, stiamo parlando di mare in chiave drammatica, ed è la questione della Concordia. Dunque, oggi continuano ormai da molti giorni le audizioni, l'ascolto dei testimoni di quella drammatica notte. Raffaella Calandra ci ha raggiunto per parlare di Concordia, ci ha raggiunto e lo ringraziamo, il sindaco dell'Isola del Giglio, Sergio Ortelli, buongiorno. Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti. Allora, due piani, Raffaella Calandra che segue questo processo da tempo, dicevo, oggi sono uscite delle storie drammatiche, forse in un certo senso ovvie, perché si parla di morti per affogamento, di vittime letteralmente risucchiate all'interno di questa enorme nave che si riempie d'acqua, e nello stesso tempo ancora spaventose nel sentirle. Sì Gigi, e direi che la cosa che mi ha colpito di più di questa giornata, una giornata diciamo normale in questo processo alla Costa Concordia che appunto abbiamo seguito fin dall'inizio, è stato soprattutto il fatto che oggi ci sono state solo parole per mostrare la morte, nessuna immagine stavolta. Cioè, nel teatro di Grosseto, che è divenuto l'aula di tribunale per il processo ad uno dei casi mediatici più seguiti al mondo, oggi le telecamere hanno dovuto cedere il passo al semplice racconto del testimone, proprio perché troppo duri sono quei video sul ritrovamento dei corpi delle 32 vittime morte tutte per asfissia da annegamento, ha confermato il comandante dei carabinieri di Orbetello Marco Barone. Nella sua deposizione, nel dibattimento a carico dell'ex comandante Francesco Schettino, si sono rivissute le ultime ore della Costa Concordia dopo l'urto contro gli scogli. Quando la nave cominciò ad inclinarsi, i passeggeri furono spinti dal lato opposto per formare una catena umana, scopriamo oggi, ma l'acqua si trasformò in un gorgo e molti vennero risucchiati nei corridoi trasformati in pozzi profondi. Qui morì anche la più piccola, Diana, di 3 anni. Qui furono ritrovate anziane coppie o giovani turisti con i giubbotti di salvataggio indossati sugli abiti da sera. Il dibattimento dunque avanza verso le battute finali, mentre il relitto della Concordia dallo scorso settembre è di nuovo diritto, centro di un imponente cantiere, qui arriviamo all'Isola del Giglio, che dovrebbe rendere la nave in grado di galleggiare e quindi di lasciare l'isola per un porto non ancora ufficialmente stabilito. Sui tempi, era stato promesso all'isola che tutto sarebbe avvenuto prima della stagione estiva, lo ha ricordato di recente anche il ministro Galletti, ma a questo punto, sindaco Ortelli, considerando lo stato dell'arte, voi avete in qualche modo già messo in conto la terza estate all'ombra della Concordia? Beh, dunque, intanto abbiamo imboccato il rettilineo finale, questo è importante dirlo, anche se è un rettilineo di una gara ostacoli, quindi c'è da superare ancora qualche impedimento che ovviamente è legato al mare, legato agli imprevisti, legato a quello che è appunto un'operazione mai vista al mondo. Però la stiamo guardando con molto ottimismo, sono stati già installati un cassone e 2 stanno ancora in attesa di essere installati. Sì, però ne sono 18 e il tempo sono più o meno 19, sono 2 giorni più o meno ad ogni cassone, quindi anche soltanto facendo un semplice calcolo matematico, considerando che tutto vada bene, ma si sa che il mare non è così prevedibile, diciamo siamo già a fine aprile. Beh, sulla tempistica sono stato sempre molto cauto, non ho mai provato una grande simpatia per i tempi, ho sempre però chiesto chiarezza, perché è bene fare chiarezza su come le operazioni si dovranno svolgere. Questo lo dico perché stiamo scivolando lentamente, ma mica tanto, alla nostra stagione estiva, la terza stagione estiva che verrà interessata dai lavori. Quindi è giusto che la popolazione che sta appunto ad accingersi a lavorare con il turismo e quindi anche nel rispetto degli ospiti che stiamo per accogliere sull'isola, dell'isola ci sia il massimo della chiarezza su come si svolgeranno le operazioni. Chiaramente, quindi voi ai turisti in qualche modo dite già che quasi sicuramente o molto probabilmente anche quest'estate ci sarà la Concordia? Mi sono fatto due conti, però sono conti che si fanno così a tavolino a casa la sera, e credo che il mese di giugno e di luglio sicuramente verranno superati. Naturalmente tutto questo potrà essere detto un po' più là. Oggi è troppo prematuro, ci sono delle autorizzazioni importanti da rilasciare. Costa sta producendo la documentazione, l'osservatorio sta lavorando e quindi tutti siamo impegnati a far modo che la nave vada via prima possibile, però ovviamente i tempi su un'operazione così importante è bene dirli con molta, molta prudenza, con molta cautela. Sindaco, intanto c'è un altro fronte, quello dello smaltimento della Concordia, tema ben più ampio che chiaramente su cui non siete voi a dover decidere. Ci sono pressioni perché lo smaltimento della nave, che è un affare da 300 milioni di dollari e che porta lavoro per 3 anni, resti in Italia. In Turchia però costerebbe molto di meno, costerebbe 40 milioni. Lei in qualche modo vorrebbe anche che ci fosse un risarcimento, diciamo, per l'Italia, per la Toscana, per tutto quello che il naufragio della Concordia ha comportato? E anzi, poi le vorrei anche chiedere, avete stimato quali sono i danni che questi 3 anni con la Concordia ci sono stati per l'isola del Giglio? Ma guardi, oggi in questo mio contatto con voi ho provato due brividi. Il primo, quando lei ha parlato di quei tristi momenti che ci riportano a una notte incredibilissima, quindi. E l'altro è quando ho saputo che a Piombino ci sono 2200 esuberi, quindi 2200 famiglie che andranno a casa. Questo è un dramma secondo noi importantissimo, che in qualche maniera, se la Concordia poteva risolverlo, bisognava in qualche maniera porselo come tema di possibilità di recupero di una situazione di crisi troppo, troppo forte, troppo importante. Quindi Piombino per noi è un porto importante perché si trova in Toscana, perché la Toscana in questa operazione ha dato molto, ha sofferto molto e ha investito molto. Lo stesso osservatorio è presieduto dalla Regione Toscana, tanto per fare un esempio. Quindi pensare a un porto straniero quando c'è una situazione su Piombino come quella che abbiamo visto in questi giorni, io penso che sia un assurdo. Ecco. Sindaco, per i danni sul fronte, chiarissimo, per quanto riguarda i danni? Beh, sul fronte dei danni chiaramente noi abbiamo un pool di avvocati e di aziende che stanno studiando quello che è il danno partito all'isola del Giglio. Abbiamo già formulato una prima proposta in sede di Costituzione di Parte Civile. Le parti chiaramente si stanno dialogando, però ecco, ripeto, è tutto in mano ai miei legali. Io, essendo un politico, essendo un amministratore, cerco di stare sempre abbastanza lontano da queste vicende. Lontano ma allerta. Grazie sindaco, buon lavoro. Un'ultima domanda invece per Raffaella Calandra, questo sul fronte dunque di Piombino. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, abbiamo raccontato in diretta gli scioperi, le proteste, le preoccupazioni. Questo anche per ribadire per i nostri ascoltatori quanto queste due storie possono essere legate. Da una parte una acciaieria, la ex Lucchini, che di fatto orientata verso la chiusura, dall'altro una nave che è ovviamente un enorme ammasso di ferro da lavorare, con la possibilità di farlo a un costo più vantaggioso lontano. Ma in questo caso il costo è davvero quello che ci deve preoccupare in primo piano? Io non credo. Ma la questione per Raffaella invece sul fronte del processo, cos'altro c'è da capire di questo processo? Deve terminare le sue fasi, diciamo, naturali. Per cui ma sta emergendo qualcosa di nuovo rispetto a quell'incredibile storia che tutti abbiamo ascoltato nel mondo di un capitano incapace? Ma è un processo molto tecnico, per cui al di là, diciamo, nelle aule dei tribunali bisogna anche il più possibile, diciamo, liberarsi anche delle emozioni che una vicenda come quella della Concordia ha trasmesso a tutti. Per cui in questo caso nel dibattimento è rimasto soltanto l'ex comandante Francesco Schettino. Bisogna andare a stabilire concretamente, perché gli altri hanno patteggiato, quali sono le precise responsabilità concrete del comandante rispetto ai fatti. Quindi è tutto chiarito? Forse sì, però bisogna aspettare che il dibattimento si concluda, che ci sia la requisitoria della procura, le arringhe della difesa e poi chiaramente la sentenza. Grazie Raffaella Calandra, ora alle 13.30 è tempo per sentire come vanno i mercati finanziari. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 13.32, ora è tempo, andiamo dritti agli aggiornamenti per quanto riguarda le borse. Borse in diretta. Eccoci qua con Isabella Tasso, buongiorno Isabella. Buongiorno. Allora, partiamo dagli indici? Sì, Milano accelera il rialzo, guadagna adesso l'1,5% ed è sostenuta dal buon andamento dell'asta di BTP che ha mostrato una discesa dei tassi a minimi record. Positivi anche i future americani, mentre si allentano le tensioni sul fronte ucraino, Dow Jones è atteso al momento a più 0,3% e Nasdaq a più 0,5%, questo nel giorno in cui partirà la riunione di due giorni della Fed e la Reserve, in particolare del Comitato di Politica Monetaria della Fed, che è il grande appuntamento di politica monetaria della settimana. In rialzo anche gli altri listini europei, Francoforte fa più 1,1%, Madrid più 0,79%, Londra più 0,6%, Parigi più 0,4%. Ecco, per quanto riguarda invece, diciamo, gli appuntamenti, l'agenda, le società, abbiamo sentito movimento intorno a MPS, ci sono sviluppi? Monte dei Paschi di Siena fa più 1,1%, questo mentre è in corso l'assemblea di bilancio e in attesa che l'istituto sottoponga ai soci l'aumento di capitale da 5 miliardi che sarà però portato all'attenzione degli azionisti in un'altra assemblea, quella del 20-21 maggio. Molta l'attenzione comunque dei media sull'assemblea di oggi, che vede anche la presenza di Beppe Grillo. Grazie Isabella, che direi che Beppe Grillo che si sta facendo sentire e come. Grazie Isabella Tasso di Radio Corp. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'avvocato Maria Magistrelli è la legale di Diana Beyer, che durante il processo che vide la condanna di Filippo De Cristofaro all'ergastolo e di Diana Beyer a 6 anni e 6 mesi, poi scontati in 15 mesi. Oggi De Cristofaro, 60 anni, e sulla base di una valutazione favorevole della sua condotta, aveva ottenuto il lavoro esterno al carcere che svolgeva sull'isola di Pianosa. Come sapete, il detenuto omicida della skipper Annarita Curina è evaso nei giorni scorsi, poi dal non tornando di fatto nel penitenziario di Porto Azzurro. Avvocato Magistrelli, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Allora, la sua cliente Diana Beyer, le chiedo di tornare all'88. Chi era allora Diana Beyer, che allora aveva 17 anni, se non sbaglio? 17 anni, però aveva conosciuto Filippo De Cristofaro nell'86, quando lei aveva 14 anni, perché lui era il suo maestro e direttore della scuola di danza che la ragazza insieme alla sorella frequentavano. Questo dunque è l'incontro. Dopo questa vicenda, una prima fuga, una seconda fuga che si trasforma in questa tragedia, e intorno a questi eventi anche evidentemente le motivazioni di una sentenza che, così riletta nell'agenzia, può apparire mite. Stiamo parlando di una ragazza minorenne allora. Una ragazza minorenne che non conosceva l'inglese, non conosceva l'italiano e che era completamente in balia di Filippo De Cristofaro, che aveva 15-20 anni più di lei. Il quale la definisce nel corso del processo una lolita manipolatrice. Sì, ricordo che questa definizione, sì. Ecco, la definizione che cui corrisponde una visione, un ricordo suo personale di De Cristofaro, che invece qual è? No, cioè un manipolatore piuttosto che una... Assolutamente. Sì, non vera, perché lui sin dall'inizio tentò di far ricadere la colpa sulla minorenne, su Diana Beyer, che invece era completamente nelle mani di Filippo De Cristofaro. Non parlava con nessuno se non con lui, non frequentavano amici, non aveva più contatti con la propria famiglia, quindi è facile nel giro di poche settimane praticamente metterla in balia solamente di se stesso, e così fu. Così fu. Nel 2007 De Cristofaro ottiene un primo permesso e fugge una prima volta. Lo ritroveranno ad Utrecht, Olanda, vicino a casa di Diana Beyer, ma anche vicino a quello che poi era legami passati del De Cristofaro. Allora, in questa cattura c'è l'indicazione di una ricerca del De Cristofaro nei confronti di Diana Beyer, oppure è un'altra storia? Credo che sia un'altra storia, nel senso che De Cristofaro viveva in Olanda, come detto prima faceva il maestro di una scuola di danza, c'aveva una fidanzata, c'aveva già un matrimonio fallito alle spalle, aveva anche un'altra attività lavorativa, o quantomeno aveva dichiarato di averla, ma poi invece risultò fasulla, quindi quello era diventato il suo ambiente di vita. Venne via da Milano e si trasferì in Olanda, e penso che la prima fuga in Olanda sia esattamente non da riferire alla ragazza, ma a riferire ad un ambiente che lui conosceva molto bene. Ecco, ragazza che nel frattempo è una donna, madre 42 anni, madre di 3 figli, esatto. E che come vive questa nuova situazione drammatica? Teme in qualche modo un coinvolgimento, oppure è completamente fuori dalla vita del De Cristoforo e da questa storia? È ormai completamente fuori, nel senso che non ha avuto più nessun contatto neanche epistolare col De Cristoforo da allora, dall'88. Naturalmente esprime sentimenti di paura, perché, e non credo sia solo una paura di essere ricontattata, è una paura a rivivere tutto quello che la ragazza ha già vissuto. Grazie all'avvocato Marina Magistrelli, lo ricordo, legale di Diana Beyer, durante il processo che vide la condanna della Beyer a 6 anni e 6 mesi e di De Cristoforo all'ergastolo, De Cristoforo che dunque in fuga ormai da più di 3 giorni. Ora cambiamo tema, anche se in qualche modo restiamo in zona, visto che parliamo di carceri. E la notizia di questa mattina è che nell'ultimo rapporto pubblicato dal Consiglio di Europa si scrivono ancora una volta parole molto pesanti per l'Italia. Il titolo, ripreso da molte agenzie, è solo la Serbia peggio dell'Italia per sovraffollamento delle carceri in Europa. Una situazione grave che non ci sorprende, ma che ci preoccupa, perché sembra non migliorare, almeno appunto dalle indicazioni. Vero è che questo è un rapporto europeo del 2012. In tutto questo la cronaca è piena ancora di storie drammatiche. Una di queste racconta di un ragazzo di 32 anni morto nella sua cella nel carcere di Giarre, dove da quasi 4 mesi aspettava un'udienza, gravemente malato, come poi i fatti hanno dimostrato clamorosamente, e per 4 mesi aspettava la possibilità magari di morire a casa sua. Francesco Morelli, responsabile del dossier Morire di Carcere dell'Associazione Ristretti Orizzonti, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. La mia sensazione, anche un po' la paura, è che la situazione fosse drammatica, lo sapevamo, ma mi smentisca, la sensazione è che non stia migliorando. La situazione purtroppo è così, è da anni che si trascina. E l'unica nota positiva è che il sovraffollamento è sceso leggermente, circa del 10% a partire dal 2010 ad oggi. È sceso però solo per effetto della diminuzione del flusso in ingresso, quindi del minor numero di persone in custodia cautelare, mentre non si sono registrati aumenti per quanto riguarda la concessione di misure alternative. Peraltro è il caso che infatti stavo giusto per chiudere. Ecco, le misure alternative sono sempre, come dire, soprattutto dopo aver sentito una storia come l'ultima, per definizione impopolari. Sì, sono impopolari, ma va anche spiegato che ben il 90% della popolazione detenuta non si rispecchia assolutamente con la situazione di De Cristoforo. I detenuti realmente pericolosi rappresentano meno del 10% degli oltre 60.000 attualmente nelle carceri italiane. Per gli altri 54.000, in una maniera o nell'altra, si potrebbero pensare a strutture e a percorsi alternativi al carcere, davvero, come avviene peraltro negli altri paesi europei, dove il numero delle misure alternative rappresenta i 2/3 dell'intera esecuzione penale, mentre in Italia abbiamo 60.000 detenuti e 30.000 persone in misura alternativa, quindi significa che senz'altro è sottoutilizzato questo strumento. Cioè lei ci sta spiegando che in sostanza il rapporto 2-1, quindi o 2/3, sì, 1/3, è ribaltato rispetto ai paesi più avanzati in Europa? Certamente, in Italia appunto abbiamo 2 detenuti ogni persona in misura alternativa, in altri paesi, nella maggior parte degli altri paesi europei, abbiamo 2 persone in misura alternativa ogni detenuto. Ecco, tutto questo naturalmente con condizioni anche di operatività e lavoro delle guardie carcerarie che sono molto pesanti. Quando voi vi occupate delle carceri, diciamo, vi occupate totalmente di chi è in carcere per una decisione appunto di una corte o per una struttura che nel suo complesso soffre collettivamente, anche appunto io penso in primo luogo a chi ci deve lavorare tutti i giorni. Sì, la nostra è un'associazione di volontariato che come mission ha proprio il sostegno e la tutela delle persone detenute. Con ciò alcuni nostri progetti, per esempio il dossier Morire di carcere, riguarda anche gli operatori, in particolar modo gli agenti di polizia penitenziaria. Per quanto riguarda il fenomeno, diciamo così, che più impressiona anche l'opinione pubblica, anche i non addetti ai lavori, quindi il fenomeno dei suicidi, posso senz'altro dire, dopo 12 anni di ricerche al riguardo, che nella polizia penitenziaria il tasso di suicidio è il triplo rispetto alle altre forze di polizia, quindi un livello di stress lavorativo, un livello di difficoltà che poi si ripercuote sulla sfera personale notevolissimo. Assolutamente abnorme. In una battuta, chi era Alessandro Braidic, un ragazzo sinto, ho letto appunto di un ultimo suicidio in carcere? Sì, era un ragazzo sinto, anche lui aveva 32 anni, si è impiccato il 25 aprile nella casa di reclusione di Padova, era stato condannato a 18 anni di carcere per un episodio, aveva investito e ucciso un anziano a Milano, ecco, quindi un episodio di che chiameremo di pirateria stradale, ecco. Grazie a Francesco Morelli, ricordo il lavoro, il dossier Morire di carcere, potete anche trovarlo appunto googolando sul web ovviamente, e con questo abbiamo chiuso questa pagina, ora viabilità, poi naturalmente andiamo come sempre negli Stati Uniti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Le notizie vanno come di consueto in questa fascia oraria negli Stati Uniti con America 24 e Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We don't yet know whether it's going to work. And that's why the next phase. Barack Obama, lo avete sentito, il presidente dice: "Beh, partiamo con questo primo giro di sanzioni, se poi sarà necessario ne imporremo delle altre". Sono delle sanzioni mirate su personaggi importanti russi che non potranno più viaggiare in Europa o in America, avranno i loro conti esteri congelati e sono soprattutto personaggi molto vicini a Vladimir Putin. Ci sono anche 17 aziende che avranno i loro conti congelati. Non si tratta ancora, come ha detto Obama, di sanzioni più dure, di sanzioni settoriali, per esempio nel settore della difesa o in altri settori. Non ha menzionato però prudentemente Obama il settore energetico, che è chiaramente il settore più delicato, soprattutto nei rapporti fra Europa e Russia. Vi ricordo che il giro di affari, l'interscambio tra Russia ed Unione Europea è di 267 miliardi di euro, mentre invece quelli tra Russia e Stati Uniti è di 18,9 miliardi di euro. Quindi chiaramente l'Europa dipende da un interscambio molto forte con la Russia, che è costituito soprattutto da un interscambio energetico. E dunque non è nell'interesse di nessuno, non della Russia, che vedrebbe tagliati flussi importanti di denaro fresco che le consentono di tenere in vita la sua economia, che non sta andando affatto bene, ma d'altra parte consentono anche all'Europa di poter procedere con il suo approvvigionamento energetico. Per ora sono sanzioni, come vi dicevo, molto mirate, focalizzate su degli individui, con degli obiettivi secondo me interessanti, soprattutto nel caso di Gennady Timchenko. Chi è Timchenko? Beh, è un uomo molto molto legato a Putin, come lo sono gli altri, perché 11 delle aziende che sono entrate nel mirino delle sanzioni americane fanno capo a lui, ed è stato anche il fondatore del gruppo Gunvor, un gruppo che gestisce operazioni di interscambio finanziario, operazioni di mercato. Qual è l'indiscrezione? E questa indiscrezione giunge direttamente dal Tesoro americano. E che Putin sia un azionista importante di questa società. Ecco, qual è il messaggio indiretto che traspare? Quel messaggio che esercita la pressione su Putin. Attenzione, si dice al presidente russo, che il sospetto da parte di molti è che tu abbia messo da parte miliardi di dollari, che tu abbia approfittato della tua posizione per accumulare ricchezze enormi, addirittura spropositate, e dunque attraverso questo cerchio che si chiude, attraverso queste sanzioni, andiamo a colpire le persone più direttamente legate a te, e dunque noi immaginiamo anche direttamente il tuo ruolo privato di investitore, di gestore di fondi. La Russia ovviamente ha sempre smentito, ma l'America invece ha confermato addirittura nella persona del segretario al tesoro Jack Lew, il quale ieri non è entrato direttamente in argomento, ma ha ricordato che queste sanzioni colpiranno la Russia che ha un'economia in difficoltà, la Russia che ha visto 63,7 miliardi di dollari di capitali stranieri in fuga nei primi tre mesi del 2014, un tasso di crescita in crollo verticale, siamo ormai a una stima dello 0,5%, un calo del rublo dell'8% contro il dollaro. Ecco, a questo contesto di tensione fra Stati Uniti, Russia, Europa, si aggiunge il fatto, vi dicevo, Barack Obama ha parlato delle Filippine, sta rientrando in America, ma questo viaggio asiatico non è andato molto bene. Il presidente voleva chiudere degli accordi commerciali simili a quelli in corso per creare l'area di libero scambio fra Europa e Stati Uniti, c'è anche la TTP, l'area di libero scambio fra Stati Uniti e Pacifico, voleva firmare carte importanti a Tokyo, non c'è riuscito, in Corea le cose sono ferme. Insomma, le cose sul piano commerciale non stanno andando troppo bene. Io ho con me i microfoni di America 24 proprio per parlare di questo contesto di difficoltà, di questi nuvoloni che sono all'orizzonte economico. Il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che è a Washington anche per preparare il terreno alla presidenza italiana dell'Unione Europea, e quindi con un ruolo molto importante proprio sul dialogo commerciale tra Europa e Stati Uniti. Calenda, buongiorno, benvenuto all'America 24. Allora, com'è Washington intanto? Sole o pioggia? Beh, no, pioggia, ma pioggia, ma molto interessante come al solito, e più interessante ancora in questi giorni per chi si occupa di commercio, perché ci sono le evoluzioni che lei ha già ben introdotto. Siamo qui per capire che ruolo possiamo giocare nel semestre di presidenza che si apre a luglio. Dobbiamo portare a casa un accordo, comunque le basi per un accordo tra Europa e Stati Uniti. L'Italia sarà il primo beneficiario di questo accordo, perché su molti nostri settori l'America rimane molto protezionista. Ecco, però diciamo che la pioggia riflette un pochino questa atmosfera di cui parlavamo prima, un'atmosfera nuvolosa, come dire, per gli sviluppi commerciali, perché ho visto anche un po' le reazioni della stampa americana, c'è molta preoccupazione sul fatto che, in particolare per ciò che riguarda il rapporto tra Russia, Ucraina e poi Europa, possa esserci un prevalere di interessi commerciali su quelli che sono gli interessi politici. Ecco, qual è la sua posizione su questo? No, la mia posizione è che prevalgono sempre gli interessi di politica estera rispetto alla politica commerciale, che è una componente dell'interesse nazionale ma non è l'unica, quindi prevale sempre la tutela dell'ordine internazionale, i rapporti con gli alleati, anche se io mi occupo di commercio e spero che tutto si risolva per il meglio, perché la Russia è un mercato importante. Noi dobbiamo sempre tenere presente che siamo più di un paese che fa solo commercio, siamo un grande paese fondatore della comunità internazionale e come tale dobbiamo comportarci assolvendo ai nostri obblighi. Ecco, in questo senso forse le dichiarazioni che abbiamo visto sul New York Times dell'amministratore delegato uscente dell'ENI, Paolo Scaroni, di ritorno da un viaggio in Ucraina, ecco, sembravano rassicurare in quella direzione, cioè nonostante l'ENI abbia un rapporto molto forte con la Russia sul piano energetico, però ecco, lei può confermarci che questo rappresenta anche il punto di vista del governo in qualche modo? Sì. Assolutamente, rappresenta il punto di vista del governo, il coordinamento con gli alleati e con l'Unione Europea ovviamente è massimo, e andremo avanti in questo modo. Io penso che bisogna cercare di disinnescare questa crisi, bisogna farlo nel modo corretto e giusto, ma non prestando il fianco neanche a comportamenti che non possiamo avallare. Ecco, lei oggi vedrà Michael Froman, che è il capo negoziatore americano, il capo negoziatore commerciale. Che cosa gli dirà per, come dire, rassicurarlo sul fatto che forse sarà ancora possibile chiudere entro la fine dell'anno, magari all'inizio dell'anno prossimo, soprattutto dopo che l'America torna da questo viaggio deludente in Giappone e in Corea? Sì, gli dirò che la globalizzazione è nata per spinta dell'Occidente, cioè dell'Europa e Stati Uniti, e che questa seconda fase, che benefici può portare all'Occidente, deve essere governata dall'Europa e Stati Uniti. C'è un'occasione e dobbiamo non perdere il momento, perché il momento è adesso, e il semestre di presidenza italiano può essere quello giusto per chiudere almeno un primo raccolto, come si dice qui, un early harvest che dobbiamo portare a casa per la fine dell'anno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, turbolenza generale, tensioni fra est e ovest, ma turbolenza anche sul piano privato per una celebrità, Paul Simon, il quale, pensate, è stato arrestato ieri notte nella sua casa di New Canaan con la moglie, su denuncia della suocera, la quale ha chiamato la polizia dicendo: si stanno picchiando, stanno litigando, c'è una situazione pericolosissima. E in America, beh, la polizia non scherza, è arrivata, li ha arrestati tutti e due, hanno passato la notte in cella. Paul Simon ha detto: ma no, stavamo semplicemente discutendo, noi andiamo d'accordissimo, lo ha confermato la moglie. Abbiamo litigato forse due o tre volte negli ultimi 20 anni. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. E anche da Milano è tutto, quando sono le 13:57 minuti. Un saluto da Gigi Donelli, da Laura Faggin, da Filippo Aureggi in regia. Appuntamento a domani.